se non sbaglio. No, per adesso no, fermiamoci al vino. Com'era nato questo soprannome Rombo di Tuono che Gianni Brera le aveva? Gianni Brera, in una partita a Milano con l'Inter, dove abbiamo vinto 3-0, e lì ha scritto sul guerrino che d'ora in avanti mi nominerà Rombo di Tuono. Da Brera fa piacere perché era il più grande di tutti. Buona bevuta allora. Grazie, buona giornata. Quando Gigi Riva tornerà, torneremo tutti in Serie A. Dopo tanti calci di rigore, troveremo insieme l'umiltà per ricominciare con più cuore. Quando Gigi Riva tornerà. E allora abbiamo parlato di Rombo di Tuono, del grande Gigi Riva, e però è il momento di entrare in cantina per conoscere l'altro Rombo di Tuono, cioè il vino che la cantina Alba e Spanetta ha deciso proprio di dedicare al grande Gigi Riva. E allora abbiamo in collegamento con noi proprio Sebastiano Alba, che insieme a Tonino è il proprietario della cantina Alba e Spanetta. Benvenuto signor Sebastiano a Bordo Campo. Buonasera. Allora, signor Sebastiano, come vi è venuto in mente di dedicare questo vino al grande Gigi Riva, chiamandolo proprio così come il grande Gianni Brera chiamava proprio Riva? Diciamo che la cosa è nata per l'amicizia che abbiamo con uno dei dirigenti della tifoseria cagliaritana, e l'idea è venuta così, perché hanno detto: perché non facciamo un vino per Riva, visto che è anche un simbolo non solamente del calcio, ma è un simbolo della Sardegna, perché alla fine dei conti Riva è diventato sardo ed è sinonimo di sardità anche per il suo carattere, e abbiamo voluto legare un vino particolare. Io soprattutto ho voluto portare in primo piano il Cagnulari, che è un vitigno autoctono della Sardegna ed in particolare di questo territorio dove noi diciamo abbiamo la cantina. Ecco, voi siete a nord-ovest della provincia di Sassari, no? Nella zona denominata Coros, quindi sgombriamo subito il campo dagli equivoci: nessuna rivalità in questo caso con Cagliari? No, assolutamente non è nessuna, anzi, diciamo, noi parliamo più che altro di Sardegna e di caratteristiche particolari, perché la Sardegna, per quanto riguarda la viticoltura, ha una particolarità, ha una miriade di vitigni e soprattutto che danno risultati diversi a seconda del territorio, quindi del tipo di terreno. Ecco, dicevamo, il Cagnulari, entriamo un po' nel vivo di questa bottiglia così particolare, perché questa scelta, e poi ci spiega anche che tipo di vino ne ricavate. Allora, la scelta era un po' per legare l'effetto diciamo pubblicitario legato a Gigi Riva, ma legarlo ad un vitigno che è poco conosciuto anche in Sardegna. Diciamo che c'ha un'evoluzione abbastanza positiva in questi ultimi anni, però diciamo è conosciuto soprattutto dagli addetti ai lavori, dagli esperti o comunque degli amanti del vino, e sta entrando pian piano nel quotidiano anche da parte di tutti quanti, perché se ne è sentito parlare tanto, e stiamo anche riuscendo ad avere dei risultati molto interessanti anche diciamo sia sul territorio nazionale ma anche sul territorio internazionale, grazie a delle aziende molto importanti che sono proprio in questo territorio. La cantina Cherchi di Usini, che è una delle diciamo dei pionieri del Cagnulari. Ecco, quindi non parliamo diciamo dei più conosciuti Cannonau o Vermentino, ma di questo vitigno particolare che dà un Rombo di Tuono che caratteristiche ha? Allora, innanzitutto il Cagnulari è un vino molto che ha caratteristiche molto prepotenti e importanti. Diciamo che è uno dei pochi vini longevi che qui in Sardegna diciamo hanno piede, perché ha delle caratteristiche di tannicità e di colore che gli permettono anche di avere un buon invecchiamento insomma, decoroso nel tempo, sì, 4-5 anni diciamo il vino matura e dà il meglio di sé. E poi il suo carattere è un po' irruento, perché un pochettino, soprattutto quando è giovane, è un po' spigoloso, deciso, e un pochettino l'abbiamo voluto legare alle caratteristiche di Riva, che erano sicuramente come ai suoi tempi, quando era un grande campione, era diciamo un uomo che sul campo la diceva tutta, nel senso che aveva del carattere fortissimo. Quindi diciamo abbiamo voluto legare il Cagnulari alle caratteristiche di sardità che anche Riva comunque poi ha voluto in qualche maniera restituirci, perché poi è diventato a fin dei conti un sardo. Ah sì, quello è poco ma sicuro. Senta, lei ha un ricordo particolare di quella straordinaria stagione 69-70, di quell'incredibile scudetto? Io sono del 52, ho 59 anni, quindi insomma sicuramente ho un bel ricordo, anche perché tra l'altro ho origini cagliaritane e quindi diciamo in quegli anni lì io seguivo il Cagliari, seguivo Riva, insomma non è... Era, e poi diciamo che non aveva bisogno certamente di essere cagliaritano uno per seguire Riva, perché la Sardegna diciamo, si è vista, cioè, diciamo, si è rappresentata in lui anche negli eventi nazionali e mondiali. C'è un'immagine particolare che conserva di quella festa scudetto? Dov'era quel giorno? Ma io ero a Cagliari, ricordo il carosello delle macchine, una cosa spaventosa, Cagliari invaso di macchine che giravano con le bandiere, una cosa meravigliosa. E noi abbiamo voluto, poi anche nell'etichetta abbiamo riportato una delle figurine Panini che venivano raccolte dai ragazzini di quei tempi, facevano gli album con lei, e quella era la rovesciata di una importante partita di Riva. Eh sì, contro il Vicenza, no? Esatto. Eh sì, raffinato e impetuoso, un vitigno raro e di non facile coltivazione, con una delicata nota balsamica, un colore rubino carico con riflessi violacei. Beh, c'è tanto di Gigi Riva in questo rombo di tuono. A questo punto dovrete studiare anche un vino per Daniele Conti, che recentemente è diventato recordman di presenze nel Cagliari. Se ne fosse... Allora, se lui ne fosse felice, noi non avremmo nessuna difficoltà. Penso che sta percorrendo la strada che Riva forse ha fatto un po' di tempo fa. Ecco, da quel punto di vista, quale potrebbe essere invece un vitigno adatto a un centrocampista coriaceo come Conti? Beh, coriaceo come Conti, tra l'altro, essendo laziale, Conti, diciamo che il vitigno ideale sarebbe un vermentino di classe, un vermentino soprattutto di struttura, perché pur essendo un vino bianco, voglio dire, non è detto che tutti i rossi siano di carattere e noi bianchi non lo siano. Se noi facessimo un bel vermentino di stramaturo, con un passaggio di botte, potrebbe essere anche molto interessante questo. E allora, signor Sebastiano, grazie e alla prossima bottiglia. Grazie a lei. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Mauro De Angeli in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito web www.radio24.it e dialogare con noi attraverso la mail abordocampo@radio24.it e il blog di A Bordo Campo sempre sulla nostra pagina web. L'appuntamento come sempre per domenica prossima alle 14.30 e in replica il sabato mattina alle 6.30. Buona giornata da Dario Ricci.